Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Ecco, dopo la morte del vecchio principe Balkonski, che è avvenuta alla vigilia della progettata partenza per Boguchárovo, la principessina Maria si ritrova sola con se stessa. Dopo i funerali del padre, la principessina Maria si era rinchiusa nella sua camera e non aveva più lasciato entrare nessuno. Alla porta si accostò la cameriera e disse che Alpátych era venuto a chiedere gli ordini per la partenza. La principessina Maria si alzò dal divano sul quale si era sdraiata e attraverso la porta chiusa disse che mai sarebbe andata in nessun posto e pregava che la lasciassero in pace. Il sole tramontò dall'altra parte della casa e dalle finestre aperte illuminò coi suoi obliqui raggi vespertini la stanza e quella parte del cuscino di marocchino che la principessina Maria guardava. Il corso dei suoi pensieri a un tratto si fermò. Senza averne coscienza, ella si sollevò, si accomodò i capelli, si alzò e si avvicinò alla finestra, respirando involontariamente la frescura della chiara ma ventosa serata. «Sì, ora puoi stare qui a goderti la sera. Lui non c'è più. E nessuno ti disturba», disse fra sé, e cadendo su di una sedia, lasciò andare la testa sul davanzale. Qualcuno la chiamò con voce tenera e sommessa dalla parte del giardino e la baciò sui capelli. Ella guardò chi fosse. Era Mademoiselle Bourienne, vestita di nero, coi manichini bianchi dal lutto. S'era avvicinata pian piano alla principessina Maria, l'aveva baciata con un sospiro e subito s'era messa a piangere. La principessina Maria le diede un'occhiata. Tutti gli antichi urti, la sua gelosia verso di lei, le tornarono in mente. Si ricordò come negli ultimi tempi lui fosse mutato verso Mademoiselle Bourienne, come non la potesse vedere e, per conseguenza, come fossero ingiusti i rimproveri che ella le muoveva in cuor suo. «E poi sta a me che ho desiderato la sua morte, giudicare chi si sia?» Ella pensò e la guardò con uno sguardo di affettuosa interrogazione e le stese la mano. Mademoiselle Bourienne si mise subito a piangere, a baciare la mano della principessina, a parlare del dolore da cui questa era stata colpita, facendosene partecipe. Disse che l'unica consolazione possibile nel suo dolore era che la principessina le permettesse di dividerlo con lei. Disse che tutti gli equivoci passati dovevano sparire dinanzi a quel gran dolore, che lei si sentiva pura davanti a tutti e che lui, di là, vedeva il suo affetto e la sua riconoscenza. La principessina ascoltava, non capiva le sue parole, ma ogni tanto la guardava e tendeva l'orecchio al suono della sua voce. E frattanto i contadini della tenuta chiedono di parlare alla principessina. La folla si mosse agglomerandosi e i contadini si tolsero in fretta il cappello. La principessina Maria, con gli occhi bassi e incespicando coi piedi nel vestito, si fece vicino a loro. Tanti differenti occhi di vecchi e di giovani erano fissi su di lei. C'erano tanti visi diversi che la principessina Maria non distingueva nemmeno una faccia e, sentendo la necessità di parlare a tutti insieme, non sapeva che fare. Ma di nuovo la coscienza di essere la rappresentante di suo padre e di suo fratello le diede forza ed ella cominciò arditamente il suo discorso. «Sono molto contenta che siate venuti», cominciò la principessina Maria, alzando gli occhi e sentendo come il suo cuore battesse forte e rapidamente. «Dronushka mi ha detto che la guerra vi ha rovinati. Questa è una sventura comune e io non risparmierò nulla per aiutarvi. Io parto perché qui c'è pericolo. Il nemico è vicino perché, amici miei, io vi do tutto. Vi prego di prendere tutto, tutto il nostro grano, perché non restiate nel bisogno. E se vi hanno detto che io vi do il grano a condizione che restiate qui, non è vero. Al contrario, Io vi prego di venire con tutto quello che avete nella nostra proprietà sotto Mosca. E là mi prendo la responsabilità e vi prometto che non starete nel bisogno. Avrete case e pane. La principessina si fermò. Nella folla si udivano soltanto dei sospiri. «Non lo faccio a nome mio», continuò la principessina. «Lo faccio in nome del defunto mio padre, che per voi è stato un buon padrone, di mio fratello e di suo figlio». E di nuovo si fermò. Nessuno interruppe il suo silenzio. «È una sventura comune e metteremo tutto in comune. Tutto quello che è mio è vostro», disse, guardando le facce che le stavano davanti. Tutti gli occhi la guardavano con la stessa espressione, il cui significato ella non poteva penetrare. Era curiosità, devozione, gratitudine, oppure paura e diffidenza? Ma certo, l'espressione su tutti quei visi era la stessa. «Siamo molto contenti delle vostre grazie, ma non dobbiamo prendere il grano del padrone», disse una voce dal fondo. «Ma perché mai?» domandò la principessina. Nessuno rispose. Quel silenzio diventava penoso per la principessina Maria. Ella tentava di afferrare uno sguardo qualunque. «Perché dobbiamo consentire? Non abbiamo bisogno di grano. Perché dobbiamo abbandonare tutto? Non consentiamo, non consentiamo, non consentiamo, non c'è il nostro consenso. Ti compatiamo, ma non c'è il nostro consenso. Va tu, da sola», si udiva nella folla da varie parti. E di nuovo, su tutti i visi di quella folla, apparve una sola e medesima espressione, e adesso era certamente non un'espressione di curiosità o di gratitudine, ma l'espressione di una esasperata risolutezza. «Non c'è il nostro consenso, ci rovini pure, non lo prendiamo il tuo grano, non c'è il nostro consenso!» La principessina Maria tentava di afferrare un'altra volta lo sguardo di qualcuno della folla, ma nemmeno uno sguardo era fisso su di lei, tutti quegli occhi evidentemente la sfuggivano. Provò uno strano senso di disagio. Uscì dal crocchio e andò a casa. Ripetendo a Dron l'ordine che l'indomani ci fossero i cavalli per la partenza, ella si ritirò in camera sua e rimase sola con i suoi pensieri. Ecco, frattanto, il 17 di agosto, Rostov e Irin si trovano a cavalcare nei pressi della tenuta di Boguchárovo. Rostov non sa che il villaggio a cui si sta dirigendo è di proprietà di Andrei Balkonski, l'ex fidanzato di sua sorella Natasha. La principessina Maria, sperduta e sfinita, sedeva in sala quando le condussero Rostov. Non capiva chi fosse e perché venisse e che sarebbe stato di lei. Vedendo la sua fisionomia russa e riconoscendo dal modo come era entrato e dalle prime parole dette che era un uomo del suo mondo, lo guardò col suo profondo sguardo luminoso e cominciò a parlare con voce tremante e rotta dall'agitazione. Rostov intravide subito qualcosa di romantico in quell'incontro. Una fanciulla indifesa, prostrata dal dolore, sola, abbandonata in balia di rozzi contadini in rivolta. «E che bizzarra sorte mi ha spinto qua», pensava Rostov, ascoltandola e guardandola. «E che dolcezza, che nobiltà nei suoi tratti e nella sua espressione», pensava, ascoltando il suo timido racconto. Quando ella si mise a dire come tutto era accaduto all'indomani dei funerali di suo padre, la sua voce tremò. Si voltò in là e poi, quasi temendo che Rostov potesse interpretare le sue parole come un desiderio di impietosirlo, gli gettò un'occhiata spaurita ed interrogativa. Rostov aveva le lacrime agli occhi. La principessina Maria se ne accorse e lo guardò riconoscente, con quel suo sguardo luminoso che faceva dimenticare la bruttezza del suo viso. «Non posso esprimervi, principessina, come io sia felice d'essere capitato qua e di aver modo di potervi dimostrare la mia sollecitudine», disse Rostov alzandosi. «Partite pure, e io vi assicuro sul mio onore che nessuno oserà farvi offesa, purché mi permettiate di scortarvi». E, inchinandosi rispettosamente, come ci si inchina alle signore di sangue reale, egli si diresse verso la porta. Col suo tono rispettoso, Rostov pareva volesse mostrare che, sebbene egli considerasse come una fortuna di poterla conoscere, non voleva approfittare della sua sventura per entrare in confidenza. La principessina Maria capì e apprezzò quel tono. «Vi sono molto, molto grata», gli disse la principessina in francese, ma spero che ci sia stato soltanto un malinteso e che nessuno ne abbia colpa. Ad un tratto la principessina cominciò a piangere. Perdonatemi, disse. Rostov, aggrottando le sopracciglia, le fece ancora un profondo inchino e uscì dalla stanza. E con la sua autorevolezza Rostov riesce a placare il disagio e l'inquietudine e l'agitazione dei contadini e a ristabilire la calma. E ciò colpisce positivamente la principessina. Rostov, non volendo imporre la propria compagnia alla principessina, non andò da lei, ma rimase nel villaggio ad attendere la sua partenza. Quando vide uscire dalla casa le carrozze della principessina Maria, Rostov montò a cavallo e l'accompagnò fino alla strada occupata dalle nostre truppe, a 12 miglia da Bogucharovo. A Yankovo, alla locanda, si congedò rispettosamente da lei, permettendosi per la prima volta di baciarle la mano. La principessina lo ringraziò con tutta l'espressione del suo viso che splendeva di riconoscenza e di tenerezza. Quando gli ebbe detto addio e fu rimasta sola, la principessina Maria a un tratto si sentì le lacrime agli occhi e le si presentò, e non per la prima volta, una strana domanda. Lo amava, forse? Per quanto vergognosa ella fosse di confessare a se stessa che per la prima volta amava un uomo che forse non l'avrebbe mai amata, si consolava col pensiero che nessuno mai l'avrebbe saputo e che non ci sarebbe stata colpa da parte sua se, senza parlarne con nessuno, sino alla fine della vita avesse amato colui che amava per la prima e per l'ultima volta. Tratto tratto ella si rammentava gli sguardi, la compassione, le parole di lui, e la felicità non le pareva impossibile. E bisognava che venisse a Bogucharovo, e proprio in quel momento, pensava la principessina Maria, e bisognava che sua sorella rifiutasse il principe Andrei. E in tutto ciò la principessina Maria vedeva la volontà della provvidenza. L'impressione che la principessina Maria aveva prodotta su Rostov era stata molto piacevole. Quando egli si ricordava di lei diventava allegro, e quando i compagni, avendo saputo la sua avventura di Bogucharovo, scherzavano con lui che era andato a cercar del fieno e aveva trovato uno dei più ricchi partiti della Russia, Rostov si irritava. Si irritava proprio perché l'idea di sposare la dolce principessina Maria, che gli piaceva e aveva una enorme fortuna, più di una volta, a suo malgrado, gli era venuta in mente. Per sé, personalmente, Nikolai non poteva desiderare una moglie migliore della principessina Maria. Quel matrimonio avrebbe fatto la felicità della contessa sua madre e avrebbe accomodato gli affari di suo padre, e anche, Nikolai lo sentiva, avrebbe fatto la felicità della principessina Maria. Ma Sonia? E la parola data? Per questo, appunto, Nikolai si irritava quando scherzavano con lui sulla principessina Balkonskaya. E a Mosca, intanto, dopo la partenza dell'imperatore, la vita riprende a scorrere normalmente, nonostante la città sia minacciata ormai davvero da vicino dalle truppe francesi. E tuttavia cominciano a circolare delle voci di gente che inizia a lasciare la propria casa. Anche Pierre comincia a rendersi conto della catastrofe imminente. Un giorno, tornando a casa per la piazza Bolotnaya, vede folla nel luogo delle esecuzioni e si trova costretto ad assistere alla punizione di due francesi accusati di spionaggio. E il pianto dei due francesi e l'eccitazione della folla e tutto l'insieme della situazione lo sconvolgono, e, arrivato a casa, dà subito ordine di partire per Mosaisk, dove erano in quel momento le truppe. Intanto si consumano le due battaglie di Shevardino e, a due giorni di distanza, quella di Borodino. E noi riprendiamo la nostra lettura dalle vicende di Pierre. La mattina del 25 Pierre partì da Mosaisk. Sulla strada che discende dall'enorme, scoscesa e ripida altura e conduce fuori della città, lasciando a destra la cattedrale, Pierre smontò di carrozza e proseguì a piedi. Dietro a lui scendeva dall'altura un reggimento di cavalleria coi cantori innanzi. Gli veniva incontro un convoglio di carri coi feriti dello scontro del giorno prima. I contadini, che facevano da conducenti, gridando contro i cavalli e facendo schioccare le fruste, correvano da una parte all'altra. I carri, nei quali stavano a tre o quattro per ciascuno, sdraiati o seduti, i soldati feriti, sobbalzavano sulle pietre gettate qua e là sulla ripida erta a guisa di lastrico. I feriti, fasciati di cenci, pallidi, con le labbra serrate e le sopracciglia aggrottate, tenendosi alle sbarre, saltellavano, sballottati nei carri. Pierre procedeva gettando occhiate dalle due parti della strada per cercare qualche viso conosciuto e dappertutto incontrava soltanto visi sconosciuti di soldati appartenenti a truppe diverse e tutti guardavano con la medesima meraviglia il suo cappello bianco e la sua marsina verde. Percorse 4 miglia, incontrò la prima persona di sua conoscenza e le si rivolse gioiosamente. Era uno dei medici capi dell'esercito. «Conte, come mai qui, eccellenza?» domandò il medico. «Avevo voglia di vedere qualcosa. Oh, ce ne sarà da vedere.» Pierre smontò e, fermatosi, si mise a discorrere col medico, palesandogli la sua intenzione di prendere parte alla battaglia. Il medico consigliò a Bezukhov di rivolgersi direttamente a Sua Altezza Serenissima. «Vi condurrei, ma Dio sa che ne ho fin sopra i capelli. Ora corro dal comandante di corpo d'armata, è sempre così da noi. Sapete, conte, domani ci sarà battaglia. Con 100.000 soldati bisogna contare perlomeno su 20.000 feriti e non abbiamo barelle, letti da campo, infermieri e medici neppure per 6.000. Ci sono 10.000 carri, ma occorre anche altro e si fa come si può.» Pierre fu colpito da questa strana idea che fra quelle migliaia di uomini vivi, sani, giovani e vecchi, che con allegra meraviglia guardavano il suo cappello, ce n'erano di sicuro 20.000 destinati a essere feriti o a morire, forse proprio quegli stessi che egli vedeva ora. Erano circa le 11 di mattina. Il sole era un poco a sinistra e dietro a Pierre e illuminava vivamente, attraverso l'aria pura e sottile, un immenso panorama che gli si apriva dinanzi sul terreno salente ad anfiteatro. Al di sopra e a sinistra di questo anfiteatro, tagliandolo, correva la strada maestra di Smolensk, che passava attraverso il villaggio con una chiesa bianca, situato lì davanti e più in basso, a 500 passi dal tumulo. Era Borodino. La strada, sotto al villaggio, traversava un ponte, e con salite e discese andava sempre più su verso il villaggio di Valujevo, che si scorgeva a 6 miglia di distanza, e là stava Napoleone. Dietro Valujevo la strada si nascondeva all'orizzonte in una foresta di alberi ingialliti. Per tutta quell'azzurra lontananza, a destra e a sinistra della foresta e della strada, in diversi punti si vedevano fumanti fuochi di bivacco e vaghe masse di truppe nostre e nemiche. A sinistra il terreno era più eguale, c'erano campi di grano e si vedeva fumare un villaggio incendiato, Semyonovskoye. Per quanto cercasse, Pierre non riusciva a trovare su quel terreno così pieno di vita la nostra posizione e neppure a distinguere le nostre truppe da quelle nemiche. Una processione, partita da Borodino, saliva su per l'altura. Oltrepassando Pierre, correvano incontro alla processione soldati e militi senza berretto. «Portano la Madonna, la nostra patrona, la Vergine di Beria, la Madonna di Smolensk», corresse un altro. I militi, quelli che erano nel villaggio e quelli che lavoravano alla batteria, gettate le zappe, corsero incontro alla processione. Dietro al battaglione che veniva per la strada polverosa si avanzavano i sacerdoti con le pianete, un vecchio col cappuccio da monaco accompagnato dagli assistenti e dai cantori. Dietro, soldati e ufficiali portavano una grande immagine dal volto nero nella sua cornice. Era l'immagine che era stata portata via da Smolensk e che da quel giorno seguiva l'esercito. Giunta sull'altura, l'immagine si fermò. Gli uomini che la portavano si diedero il cambio. I suddiaconi accesero di nuovo i turiboli e cominciarono le preghiere. I caldi raggi del sole venivano dall'alto verticalmente. Un lieve e fresco venticello faceva ondeggiare i capelli delle teste scoperte e i nastri che adornavano l'immagine. Il canto risuonava sommesso sotto la volta del cielo. Un'immensa folla di ufficiali, soldati e militi, tutti a testa nuda, circondavano l'immagine. La folla a un tratto si aprì, andando addosso a Pierre. Qualcuno, certo un personaggio molto importante, a giudicare dalla fretta con la quale gli facevano largo, si avvicinò all'immagine. Era Kutuzov, che andava ispezionando la posizione. Pierre riconobbe subito la sua figura particolare, che si distingueva fra tutte. con un soprabito lungo che gli avvolgeva l'enorme corpo obeso dal dorso curvo, col bianco capo scoperto, col suo occhio bianco spento sul viso gonfio, Kutuzov entrò in mezzo alla folla con la sua andatura ondeggiante e barcollante e si fermò dietro al sacerdote. Si segnò con gesto abituale, toccò la terra con la mano e, respirando pesantemente, abbassò la sua testa canuta. Quando il servizio fu finito, Kutuzov si avvicinò all'immagine, si buttò pesantemente in ginocchio, prosternandosi, e per un pezzo si sforzò di rialzarsi, senza riuscirvi, per il suo peso e per la debolezza. La sua testa canuta si contraeva per lo sforzo. Finalmente si alzò, e avanzando le labbra con un'ingenua mossa da bambino, baciò l'immagine. Poi si inchinò di nuovo, toccando la terra con la mano. I generali seguirono il suo esempio, poi gli ufficiali e dietro di essi, spingendosi l'uno l'altro, anelando e urtandosi con le facce commosse, vennero i soldati e i militi. Spinto da quell'agitarsi della folla, Pierre si guardava intorno. «Conte! Piotr Kirillich! Come mai siete qui?» disse una voce. Pierre si voltò. Boris Drubetskoy, pulendosi con la mano i ginocchi che gli s'erano inzaccherati, probabilmente nel baciare anche lui l'immagine, si avvicinava con un sorriso a Pierre. Boris era vestito elegantemente, con una sfumatura di bellicosità campale. Aveva un lungo soprabito e il frustino a tracolla, come Kutuzov. Pierre spiegò la sua intenzione di partecipare alla battaglia e visitare la posizione. «Fate così», disse Boris. «Voi vedrete tutto nel miglior modo dal posto dove sarà il conte Benningsen. Io sono addetto alla sua persona. Gli parlerò di voi. Se volete visitare la posizione, venite con noi. Ora andiamo al fianco sinistro. Poi torneremo e vi invito cordialmente a passare la notte da me. Faremo anche una partita». Nel comando dell'esercito c'erano due partiti assolutamente distinti. Il partito di Kutuzov e il partito di Benningsen, capo di Stato Maggiore. Boris si trovava in quest'ultimo partito e nessuno sapeva, al pari di lui, mostrando un rispetto servile a Kutuzov, far capire che il vecchio valeva poco e che chi faceva tutto era Benningsen. Ora era venuto il momento decisivo della battaglia che doveva o annientare Kutuzov e dare il potere a Benningsen o, se anche Kutuzov vinceva la battaglia, far sentire che era stato Benningsen a far tutto. Kutuzov notò la figura di Pierre e il gruppo che s'era formato intorno a lui. «Chiamatemelo», disse. Un aiutante trasmise il desiderio di Sua Altezza Serenissima e Pierre si diresse verso la panca. Ma prima ancora di lui si avvicinò a Kutuzov un semplice milite. Era Dolokhov. «E costui, come mai è qui?» domandò Pierre. «È un briccone che si ficca dappertutto», fu risposto a Pierre. «L'hanno degradato. Ora deve ritornare su. Ha presentato certi suoi progetti ed è penetrato di notte nella linea nemica. Ma è un uomo di fegato». Pierre, togliendosi il cappello, si inchinò rispettosamente davanti a Kutuzov. «Volete fiutare la polvere?» disse Kutuzov a Pierre. «Già, è un odore piacevole. Ho l'onore di essere uno degli ammiratori di vostra moglie. Sta bene? Il mio alloggio è a vostra disposizione». E come accade spesso ai vecchi, Kutuzov si guardò intorno distrattamente, come dimenticando tutto quello che doveva dire o fare. Quando Pierre si allontanò da Kutuzov, Dolokhov, fattoglisi accanto, lo prese per il braccio. «Sono molto lieto di incontrarvi qui, conte», disse, senza prendersi suggestione della presenza di estranei, con particolare risolutezza e solennità. «Alla vigilia di un giorno nel quale Dio sa chi di noi è destinato a restare fra i vivi, sono felice di questa occasione per dirvi che rimpiango i malintesi che ci sono stati fra noi e che desidererei che voi non aveste nulla contro di me. Vi prego di perdonarmi». Pierre, sorridendo, guardava Dolokhov e non sapeva che cosa dirgli. Dolokhov, con le lacrime agli occhi, abbracciò e baciò Pierre. Boris disse qualche cosa al suo generale e il conte Benningsen, rivolgendosi a Pierre, lo invitò ad andare con lui lungo la linea. «La cosa sarà interessante per voi», disse. «Sì, molto interessante», disse Pierre. Mezz'ora dopo, Kutuzov se ne andò a Tatarinova e Benningsen, col suo seguito, in mezzo al quale era anche Pierre, si avviò lungo la linea. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.